l'elemento sommato. Sembra che Luca abbia raccolto frammenti, degli spezzoni, dei fotogrammi. C'era allora diversi della predicazione di Gesù. Girava, passeggiava, imprecava, si commuoveva. Ecco. Luca ha raccolto un po' e c'è un tema che li unisce tutte queste, questi spicchi di vita. E il maestro che continua il suo cammino verso Gerusalemme. E il tema è la salvezza e la condizione per raggiungerla. C'è una domanda un po' birichina, provocatoria. Sono pochi quelli che si salvano? C'è l'immagine della porta stretta. C'è quella affermazione, gli ultimi saranno i primi. Ed ecco uno dei tanti incontri con una domanda. Sono pochi quelli che si salvano? Il sottofondo, la radice della domanda non nasconde in qualche modo, oltre alla curiosità, oltre alla preoccupazione di colui che la pone, forse l'interlocutore ha preso una sbandata degli insegnamenti, delle prediche, del modo di fare di Gesù. E probabilmente si poneva seriamente il problema della salvezza. Ora, se caliamo giù, il pensiero che domina questi brani biblici si può riassumere, anche se con tutti i limiti, in questo interrogativo. Chi ha mai potuto conoscere il pensiero di Dio? Preso così, in modo assoluto, può provocare anche un senso di adorazione di fronte all'inconoscibilità. Ogni uomo religioso, di qualsiasi religione, che arriva a porsi questa domanda, sa che la risposta è: nessuno conosce i pensieri di Dio. È ora che stiamo qui a blatelare. Ogni uomo religioso, cosa che ci mantiene in debita umiltà di fronte ad ogni evento. Però io non ci sto a questo. Io desidero conoscere con umiltà, sapendo che ci sono dei grossi limiti. E allora San Paolo ci viene in aiuto a intraprendere e a capire una risposta, come dire, una indicazione, ecco, una indicazione. Il pensiero di Dio, che non ha consiglieri, le cui vie nostre non sono come le sue. Questo pensiero noi lo conosciamo. Questa è la grandezza. Perché? Perché si è manifestato in Gesù Cristo. Cioè, se voglio sapere che cosa pensa Dio del mondo, dell'umano, uomo, donna, del mondo degli eventi, interrogo Gesù Cristo. Questo che mi parla di porta stretta, questo Gesù Cristo che mi parla degli ultimi, che che diventeranno primi. Quindi il pensiero di Dio non è poi così scuro. Tutto il linguaggio simbolico delle scritture, dei profeti, ci portano a fare considerazioni. Porto tre esempi che tolgo dal testo di oggi. E il primo esempio dice: noi abbiamo mangiato con te e abbiamo ascoltato il tuo messaggio. E dall'altra parte si sentono dire: ma io non so di dove siete. Contraddizione terribile, no? E chi sono questi che lui non riconosce? Non condanna, non li riconosce. Sono i responsabili del Tempio e della legge. Gesù non li riconosce perché si sono trasformati in fastidiosi corteggiatori, in cerimonieri, alla ricerca di privilegi. Loro che si ritengono, i possessori di verità. Diventano i giustizieri del bene e del male, perché suppongono di avere la verità. So qual è il pensiero di Dio. Non solo, uno solo è il vostro maestro. Perché mi interrogate sul bene e sul male? Uno solo è buono, il Padre vostro. Delle dita puntate contro. Vabbè, poi qui c'è tutta la storia delle persone, vabbè. Ma questo è il punto. Gesù dice: non vi conosco perché siete falsi, perché siete ipocriti. Voi che mettete il peso sulle spalle, però voi non sapete sopportarle. Secondo esempio, se esprimiamo o comunque facciamo esperienza di un atto di perdono che crea pace, so che cosa pensa Dio, che rispetta, riconosce, guarda nella coscienza e usa misericordia e amore. Se ci inoltriamo in un sentiero di continua conversione, di maturazione, ricercatori di verità, e la ricerca della verità è per dare un orientamento il più lucido, il più illuminato possibile alla nostra coscienza, apre l'orizzonte per agire, appunto. E io non mi rassegno. Avverto, notate, la possibile ipocrisia che si può annidare dentro le mie paranoie, le mie nevrosi, le mie paure, la porta stretta. Se quindi lasciamo spazio alle esigenze più profonde che portiamo in noi e assumiamo con rigore, con rettitudine, con trasparenza il confronto a cui ci sollecitano gli eventi, i fatti, le cose, le relazioni, le vicende, le brutture, ho preso il gas nervino, so che cosa pensa Dio. La regalità della nostra dignità di coscienza. La via stretta, se ci entriamo a passo di danza o con umiltà gioiosa, noi sappiamo cosa pensa Dio di noi. Da ultimo, se vado a contatto con certe persone che vivono magari in modo drammatico, alcune situazioni, anche esistenziali. E penso a quanti, oltre alla loro responsabilità, vivono sfruttando le debolezze gli ultimi e magari senza rimanere neppure un giornino, un giorno piccolo piccolo in carcere. Allora so qual è il pensiero di Dio: gli ultimi saranno i primi. Posso citare Pasolini, non è il Verbo incarnato, però era mica, diceva delle cose. A un certo punto, col suo linguaggio così estremo, ha scritto: incominciamo a disobbedire a Cristo prima di capirlo, perché non si considerano degni di conversione. E Gesù, che è il fallito della croce, che dice loro: oggi sarete con me in paradiso. E voglio chiudere con un pizzico. Verrà il giorno in cui le beatitudini, il discorso della montagna, saranno, e il giornale saranno la descrizione di ciò che avviene. Allora la contraddizione sarà finita. Ci porremo più l'interrogativo posto all'inizio: chi si salverà? Illuso. Mi rendo conto che questa città dove si può narrare le beatitudini, si possono narrare le beatitudini, è una città che non c'è ancora. Però aspettiamo. E in noi è in noi questa speranza, come un bambino nel seno della madre che lo ha concepito. Chissà quanto tempo dovremo portare avanti questa gestazione. L'importante però è portarla avanti. Gloria a Dio.